L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, quello della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Torniamo dopo la pausa estiva e rientriamo subito in media stress, affrontando un tema del tutto nuovo per questa trasmissione. Parleremo infatti oggi di sanità, di riciclo, riutilizzo in questo campo e infine anche di rifiuti sanitari. Diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti, che sono Alessandro Trapani, presidente di Assosistema. Benvenuto. Buongiorno. Ed Enzo Mengozzi, imprenditore e presidente della Mengozzi S.p.A. Benvenuto anche a lei. Allora, Assosistema riunisce le imprese che svolgono attività di sanificazione, sterilizzazione di dispositivi tessili, strumenti chirurgici o che si occupano anche di fabbricazione di dispositivi medici sterili per interventi chirurgici. Per quanto riguarda invece la Mengozzi S.p.A., un'azienda di Forlì, si occupa del trattamento dei rifiuti sanitari, ma ha anche brevettato l'ospedale a imballo zero per la riduzione, più semplicemente lo smaltimento dei rifiuti in maniera più razionale. Quindi chiamiamo subito in causa Alessandro Trapani per Assosistema, perché vorremmo sapere da lei di questa ricerca che avete recentemente presentato sull'usa e getta. È una ricerca commissionata all'Istituto di Ricerca Ambiente Italia. Ci dica un po', l'usa e getta, molto diffuso ma anche molto inquinante, così emerge dalla ricerca. Sì, assolutamente sì. Diciamo che la percezione era esattamente il contrario, la percezione era questa. Noi l'abbiamo commissionato questa ricerca proprio perché dicevano questo: i vostri prodotti, che sono riutilizzabili, quindi in tessuto, in cotone, in tessuti tecnici, sono sì più confortevoli, più belli, però sicuramente hanno un impatto ambientale, un inquinamento maggiore, non fosse altro perché consumate acqua per lavarli, consumate dei detersivi, dei detergenti che vanno ad inquinare, quindi accrescono l'eutrofizzazione, eccetera. E noi pensavamo veramente, da questo punto di vista, di essere figli di un dio minore, fino a quando non abbiamo messo in fila un po' di numeri, e non li abbiamo messi in fila noi, li ha messi un istituto prestigioso come Ambiente Italia, utilizzando un sistema assolutamente scientifico. Vengono fuori dei dati che sono, devo dire, impressionanti. Cioè abbiamo un minore impatto sull'ambiente dei nostri prodotti, del riutilizzabile, rispetto al monouso, del 53% in meno sul riscaldamento globale, 30% in meno sull'impoverimento dello strato di ozono, 95% in meno sull'eutrofizzazione delle acque. Paradossalmente c'è un maggior consumo di acqua per produrre un capo, un camice o qualsiasi altra cosa in usa e getta che non in cotone, che viene poi lavato non quotidianamente, ma che viene lavato, rimesso ai clienti che, certo, poi lo utilizzano. Mm-hmm. E quindi questo per un minore impatto sull'ambiente. Poi ci sono anche dei risparmi di vita, dei risparmi sulle energie non rinnovabili, sui materiali del 50%, sulle risorse rinnovabili con un contenuto energetico, per esempio, il 94%. Cioè sono dei numeri veramente imponenti. Cioè esattamente il contrario della percezione. C'è da dire che questa ricerca, che è stata compiuta per l'ambito sanitario, in particolare sul camice, no? Camice chirurgico riutilizzabile, voi l'avete condotta poi anche nel settore turistico, quindi moltiplichiamo i numeri, no? Per i settori, l'uno e l'altro, e sono numeri importanti a questo punto. È assolutamente così, nel senso che lo stesso impatto di un tovagliolino di carta è paragonato al peso, naturalmente, alla quantità, lo stesso che c'è su un camice in monouso, quindi ed è lo stesso che c'è su un normale tovagliolo, ad una tovaglia di tessuto di cotone, rispetto a un camice anch'esso di cotone, di tessuto tecnico. Quindi questo è per quanto riguarda l'impatto ambientale ed il risparmio su risorse. Poi c'è la parte relativa, che in qualche modo ci mette in contatto con l'attività dell'altro interlocutore, che è quella legata allo smaltimento. Naturalmente, trattandosi di rifiuti ospedalieri, il camice riutilizzabile, che è un rifiuto ospedaliero che diventerà rifiuto speciale o quello che sarà in funzione di come è stato utilizzato, ha ovviamente un impatto sull'ambiente che viene sicuramente minimizzato da delle attività come quelle svolte dal signor Mengozzi, che però c'è. Adesso chiedo l'intervento del dottor Mengozzi. Questo studio è diciamo di interesse per voi? Era qualcosa che può servire? È qualcosa che può servire nella vostra attività? Ma senz'altro è uno studio che conferma una buona norma, una buona tecnica di trattamento dei rifiuti, che prima di tutto è produrne di meno. Naturalmente, nel nostro caso, per esempio, abbiamo un impianto che è integrato, che riutilizza le stesse acque, le ricicla, le riutilizza, in quanto dopo essere utilizzate al lavaggio fumi, calde, depurate, vengono utilizzate per il lavaggio e la sanificazione dei contenitori. Presidente, lei ci ha già portato all'impianto, no, che voi avete realizzato. Allora, visto che ci ha portato lì, ci spieghi che impianto è, a cosa serve, insomma. I rifiuti ospedalieri devono essere per legge inceneriti, lo sono sempre stati. Fino al 1982 si bruciavano in piccoli forni presso ogni singolo ente ospedaliero. Poi la normativa ambientale ha messo fuori uso e antieconomico questi forni. Quindi si è passati unitamente a delle norme per la sicurezza, a una raccolta dai reparti con contenitori dei rifiuti e poi inviati all'incenerimento. E sono effettivamente dall'inceneritore, però in effetti noi ci caratterizziamo per aver dotato il contenitore, che normalmente era monouso e lo è ancora in parte, con un contenitore riutilizzabile. Contenitore per contenere cosa? Contiene i rifiuti potenzialmente infetti, quelli che sono a contatto con il malato nelle corsie, nelle sale operatorie, nei laboratori analisi. Questi contenitori, quindi in questi contenitori ci sono anche i camici, quelli monouso per esempio? Sì, sono tutto il materiale monouso che ha avuto insomma un contatto con il malato. Certamente sì, ma quelli che una volta che l'operatore non ha avuto contatti, non si è sporcato, eccetera, lo può mettere tranquillamente nei rifiuti urbani. Vabbè, no, era solo per capire insomma qual è il punto di vicinanza, ma anche di discrepanza, no, tra voi. È il potenziale infettivo che può essere messo nell'ambiente da questa tipologia di rifiuto, e quindi c'è una raccolta differenziata con questo criterio. Quindi voi diciamo avete sostituito questi cartoni che contengono materiale di varia provenienza, che infetta comunque, che va trattata in modo particolare, con altri contenitori riutilizzabili più volte, quindi con un risparmio anche in termini ambientali, no? Poi ci sarà... solo anche economico. Anche economico. E noi fatturiamo il peso netto del rifiuto, quindi con escludimento, invece con monouso il cartone diventa anch'esso rifiuto da incenerire insieme al contenuto. Senta, mi tolgo una curiosità: tutti gli ospedali che servite con la vostra azienda poi conferiscono tutto questo materiale da distruggere allo stesso impianto lì vicino a Forlì? Sì. Tutti. Sì, sì. Quindi anche il sistema comunque di trasporto e tutto rende la vicenda più economica rispetto allo smaltimento in altri luoghi. Sì, perché i trasporti sono certamente un costo, non possiamo nascondere, però occorre avere economie di scala e investimenti tali per cui le economie di scala compensano e i vantaggi ambientali che se ne ricavano compensano i maggiori costi di trasporto. Senta, poi torniamo a Trapani, però proprio per riportarci al discorso di Assosistema, avete valutato, oltre al riutilizzo di questi contenitori che servono appunto per il trasporto, la possibilità di introdurre anche altri materiali riciclabili, riutilizzabili, quindi ad esempio magari questi in tessuti che adesso vengono fatti monouso, e magari suggerire a un ospedale l'utilizzo di altri materiali lavabili e quindi riutilizzabili? No, noi siamo monoprodotto, noi insegniamo le USL a produrre, a fare una raccolta differenziata dei rifiuti seria, perché abbiamo un impianto di 32.000 tonnellate plafonato, un chilo in più non lo possiamo fare, e quindi noi abbiamo interesse ad avere maggiore clientela e anche istruire il personale delle USL, che col nostro sistema e buone pratiche riducono il rifiuto anche del 50%. Trapani, invece, per aiutare chi lavora nel settore alberghiero, sanitario, turistico, eccetera, eccetera, a capire che questa è una via da percorrere per salvaguardare l'ambiente in generale, come si può fare? Perché la riduzione del rifiuto, abbiamo capito, c'è chi ci pensa, anche perché da un punto di vista imprenditoriale è interessante. È interessante anche l'altra via, e come si può far capire che è interessante anche l'altra via? Guardi, pare che le uniche cose che funzionino sono quelle che generano un risparmio economico. Purtroppo mi rendo conto che il momento non è un momento ideale, però bisognerebbe mettere veramente al centro l'ambiente, dopodiché io sono convinto che ci sarebbero anche dei risparmi che non sono quantificabili magari immediatamente. C'è un esempio che lei mi ha fatto prima al telefono quando ci siamo sentiti, ed è ad esempio quello della vita dopo la vita di questi materiali, no? Anche quella è una via interessante. Assolutamente sì, cioè i prodotti che noi ritiriamo a fine vita, diciamo, in questo caso dagli ospedali, intanto non hanno necessità di essere trattati da un punto di vista igienico, non ha necessità di essere, come dire, distrutto, come diceva il signor Megozzi, con impianti di termovalorizzazione, perché non c'è questa necessità da un punto di vista igienico, ma può essere utilizzato in n modi, come materia secondaria per nell'industria delle automobili, per utilizzarlo in imbottitura dei sedili, per formare dei pannelli all'interno dei parafanghi, quelli che noi comunemente vediamo, che hanno questo aspetto che sembra stoffa ed altro, è stoffa pressata. Possono essere utilizzati anche come in industrie che li sfilacciano per formare delle altre fibre che poi ricostituiscono gli stessi capi. Il cotone ultimamente è aumentato del 140%, quindi si può capire anche che esiste, che c'è una validità economica di questo trattamento. Vorrei tornare un attimo a Mengozzi per parlare di un altro dettaglio della sua esperienza, perché questi contenitori di cui ci ha parlato prima sono essi stessi riciclabili, no? Sì signori, noi nel nostro piccolo abbiamo fatto questa esperienza interessante, non diventano mai rifiuto. Dopo 12 cicli vengono triturati e ristampati con una piccola quantità di materiale vergine. Ovvio che qui risparmiamo tonnellate di petrolio equivalente. Anche noi abbiamo fatto calcoli che adesso non ho sotto mano, interessantissimi rispetto al monouso. Diciamo così che questa amarezza, insomma, anche noi abbiamo sofferto il fatto di riuscire ad avere una pubblica amministrazione che va conformandosi, però per esempio l'autorità garante del mercato eccetera ci ha dato una mano, perché i capitolati venivano fatti solo col monouso per esempio, e tagliavano fuori una buona pratica non solo ambientalmente ma anche economicamente conveniente. Ci ha dato un altro elemento importante però, quindi l'imparare il riutilizzo e il riciclo è anche qualcosa che deve fare la pubblica amministrazione, deve insegnare e permettere che si faccia. Sì, la pubblica

è quella di, attraverso convenzioni eccetera eccetera, sempre mantenendo l'accesso privato alle proprie case, ma aprire questi spazi e farne veramente dei luoghi dove veramente i bambini possono giocare, si mettono le biciclette, ci si incontra, si vive nel verde, si vive con un'aria più pulita, non a contatto dei gas di scarico, all'interno del proprio microcosmo verde, avendo quindi rivalorizzando completamente i nostri spazi abitativi. Lei lavora soprattutto in Italia? Io lavoro soprattutto in Italia, anche all'estero, ma soprattutto in Italia. Sì. Lavora in diverse città d'Italia. Secondo lei qual è in questo momento la più avanti, comunque più all'avanguardia di tutte le città su cui ha lavorato? Ma guardi, mi piace dire, anche se sembra una cosa strana, che una delle più avanguardia citerei Bolzano. Perché Bolzano? Perché è l'unica città, una delle uniche città almeno, che ha recepito nel suo proprio regolamento comunale la necessità e l'obbligo di creare tetti verdi quando si costruisce, si cementifica alla base, quindi di compensare con tetti verdi o con il verde attraverso dei parametri ben precisi, quindi ispirandosi in questo anche al nord Europa, e compensare la cementificazione con altro verde, e quindi è una visione di lungo respiro strategica che nessuno quasi ha fino adesso avuto. Grazie a Cristina Carpinelli per l'intervista. Andiamo adesso all'altra nostra rubrica, articolo 9. Come l'articolo della Costituzione italiana che dice la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Il microfono passa come sempre a Marco Carminati. Buongiorno da Marco Carminati, è in collegamento con noi la Presidente di Italia Nostra, la dottoressa Alessandra Mottola Molfino. Buongiorno Presidente. Buongiorno Marco. Ecco, voi di Italia Nostra siete le vedette, le sentinelle del nostro paese e anche in questa occasione lei ci porterà a vedere un luogo dell'Italia poco noto agli italiani, molto importante storicamente, ahimè con una spada di Damocle sulla testa, e una soluzione che Italia Nostra ha già trovato per venire fuori dal problema. Dove ci porta oggi, Presidente? Ma io vi porto nelle risaie del Vercellese. Ah, bellissimo. Fino a Trino, nota forse molti anni fa per una minacciata centrale nucleare, e in queste bellissime risaie c'è un insediamento rurale ancora del Settecento, che fu poi di Napoleone Bonaparte e che fu comprato dal padre di Camillo Benso, conte di Cavour, nostro padre della nostra nazione unita più di 150 anni fa. Ecco, come si chiama questa tenuta? Si chiama Leri è vicino a Trino, nel comune di Trino, okay. Vercellese, ed era all'epoca di Cavour un'azienda agricola all'avanguardia, dove si facevano dei risi speciali e dove Camillo si ritirava spesso facendo anche politica da lì, scrivendo lettere, sperimentava tecniche di coltivazione. E oggi in questa zona il comune ha acquistato il piccolo borgo di Trino, di Leri Cavour, e il comune di Trino lo ha acquistato. Attualmente però il borgo è disabitato. Ecco, quindi un posto così importante, che era una fattoria modello ai tempi di Cavour, dove Cavour tra l'altro si ritirava per scrivere e meditare sul futuro della nostra patria. Ecco, oggi voi cosa avete trovato? Cos'è che non funziona in questo luogo? La casa di Cavour è praticamente in rovina, invasa dalle erbacce, e con una statua di lui ha perso anche la testa, che è stata stata vandalizzata. Povero Cavour, sì. Sì, e quindi noi cerchiamo insieme al Comune di Trino, la nostra sezione italianostra Vercelli e il Consiglio interregionale del Piemonte Valle d'Aosta di Italianostra ha fatto un convegno, ha celebrato i 150 anni dell'Unità d'Italia, ha fatto una proposta in sinergia col Comune di Trino di recuperare la casa di Cavour come un piccolo museo didattico e soprattutto di recuperare l'azienda agricola modello con la produzione di prodotti biologici. Però c'è un però, c'è una minaccia anche molto forte, perché esiste un progetto di un'enorme centrale fotovoltaica a terra che la Regione Piemonte ha per ora sospeso, la cui autorizzazione è sospesa, però è una moratoria del tutto temporanea, quindi questa grande distesa di pannelli fotovoltaici potrebbe occupare le risaie un tempo di Cavour. Ecco, quindi voi di Italia Nostra naturalmente avete alzato le antenne per difendere questa situazione, ma dal punto di vista, diciamo così, economico, com'è possibile oggi riprodurre un'azienda agricola modello nel Settecento? Quali sono le formule che voi potreste suggerire per rimettere anche dal punto di vista economico in piedi questa struttura? Certo, noi quest'anno abbiamo scelto appunto la tenuta di Cavour a Leri in provincia di Vercelli come una delle zappe nere. Ah, che ridere. Nella campagna di paesaggi agrari, paesaggi sensibili d'Italia Nostra, l'abbiamo messa sotto il nostro controllo, sul nostro fuoco. Noi crediamo che l'agricoltura in Italia possa produrre prodotti di qualità e non prodotti seriali, prodotti biologici, prodotti col marchio italiano, e questo sarebbe anche un grande marchio patriottico, certo, quello della tenuta di Cavour. E quindi crediamo che questa agricoltura abbia un futuro. Un futuro, certamente, quindi bisogna trovare la possibilità di sfruttare al meglio questo luogo. Sì, che bisogna anche che l'agricoltura specializzata italiana venga sostenuta con degli incentivi e con delle attenzioni particolari, ma la Coldiretti, che è uno dei nostri alleati in questa campagna dei paesaggi agrari, ha già mosso anche in Europa la politica su questo tema, prodotti di qualità, prodotti italiani col mare italiano che siano incentivati. Insomma, Presidente, il messaggio mi sembra molto chiaro. Salviamo questa tenuta, perché è una tenuta importante, bellissima e storicamente molto significativa per tutta l'Italia, non solo per il Piemonte, e produciamo qualità, agricoltura di qualità. Lasciamo magari perdere queste distese terrificanti di pannelli che, ahimè, si stanno diffondendo a macchia d'olio. Io ringrazio molto la Presidente di Italia Nostra. Grazie, Presidente. Grazie a voi di Radio 24. Ecco, e agli ascoltatori auguro una buona giornata. Con la segnalazione di Marco Carminati è tutto anche per questa settimana. Per riascoltarci c'è il sito radio24.it, c'è anche l'indirizzo email di questa trasmissione, l'altropianeta@radio24.it, oppure potete scrivere direttamente a me, laura.bettini@radio24.it. Ci sentiamo la prossima settimana alla stessa ora.